345. Sformato di riso col sugo, guarnito di rigaglie. Tirate un buon sugo di carne e servitevi del medesimo tanto per il riso che per le rigaglie. Queste, a cui potete aggiungere qualche fettina di prosciutto, fatele dapprima soffriggere nel burro. Conditele con sale e pepe e tiratele a cottura col detto sugo. L'odore dei funghi o dei tartufi non fa che bene. Il riso fatelo soffriggere egualmente nel burro, così all'asciutto. Poi tiratelo a cottura con l'acqua bollente e dategli grazia e sapore col detto sugo e per ultimo col parmigiano. Ammesso che il riso sia grammi 300, uniteci due uova frullate quando avrà perduto il forte calore. Prendete una forma liscia, tonda o d'ovale, ungetela col burro, copritene il fondo con una carta imburrata e versateci il riso per assodarlo al forno da campagna. Quando lo avrete sformato, versateci sopra il sugo delle rigaglie, che avrete prima condensato alquanto con un pizzico di farina, e servitelo con le sue rigaglie in giro, avvertendovi che queste devono diguazzare nel sugo.